La rosa purpurea di Franco d'Assisi. Vuole che le dica brutalmente cosa può farci con quella promozione? Colonnello, chieda scusa o la faccio mettere agli arresti. Chiedo scusa di non essere stato del tutto franco con lei. Chiedo scusa per non aver rivelato i miei veri sentimenti. Le chiedo scusa per non averle detto prima che lei è un vecchio, sadico e degenerato e può andare al diavolo prima che le chieda di nuovo scusa, ora o mai più! Puntata della Rosa Purpurea dedicata a Kirk Douglas, che ci ha lasciato a 103 anni, benedetto lui, ma insomma, davvero un gigante assoluto, forse l'ultimo gigante assoluto della Hollywood, della Golden Age di quegli anni 50 e 60 che hanno contrassegnato la storia del cinema in tutto e per tutto. L'attore, il volto di film come Spartacus, Orizzonti di Gloria che avete sentito nella clip, oppure Parigi Brucia, oppure ancora Sfida all'OK Corral, ma insomma la sua filmografia è fatta di nomi e di numeri straordinari: Robert Aldrich, David Miller, Frankenheimer, Otto Preminger, René Clément, troviamo di tutto, Elia Kazan, Joseph Mankiewicz, è davvero, ha lavorato con il meglio della storia del cinema. Addio al grande Kirk Douglas e buongiorno e ben ritrovato a Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Boris, cominciamo da qua, cominciamo da una leggenda che se ne va. 103 anni ce l'aspettavamo, anche se poi era diventata un'abitudine vederlo alla notte degli Oscar, sempre più in forma di noi. Devo dire che forse è stato l'ultima delle facce di marmo, le facce granitiche, no? Quelle da Hollywood a cui non serviva in fondo nient'altro che stare in scena, neanche però il primo degli attori che ha cercato nell'eclettismo, nella forza dell'espressività e anche della sperimentazione il suo modo di essere in scena, no? Io penso anche a film che magari sono stati citati di meno in questi giorni, come Asso nella manica, Il grande campione, tanti film che lo hanno visto usare il corpo, la mente, gli occhi, l'ironia in maniera completamente diversa, oltre ovviamente a quello che abbiamo sentito, Orizzonti di Gloria, che curiosamente viene citato in maniera pesante in uno dei film favoriti agli Oscar, che è 1917, che inizia proprio con una citazione stracitata, tra l'altro, di Orizzonti di Gloria. E hai parlato di 1917, hai parlato di Oscar, e anche la puntata che immette, diciamo così, naturalmente alla notte degli Oscar, nella notte italiana fra domenica e lunedì verranno assegnate le statuette. Ricordiamo, si parte dalle 41 nomination in 4 film, mai equilibrio fu più totale, Joker 11 nomination e poi 1917, C'era una volta Hollywood e The Irishman 10 nomination, e attenzione anche agli Outsider, Parasite e Storia di un matrimonio. Qual è il tuo Oscar del cuore? Il mio Oscar del cuore forse è Marriage Story, cioè un regista che tra l'altro normalmente non mi fa impazzire, che è Baumbach. Credo che però vincerà Joker, che la sceneggiatura originale andrà a Parasite, l'attore non protagonista a Tarantino, quindi con Brad Pitt, e che poi Marriage Story si prenda Scarlett Johansson, che ha una doppia candidatura e che in quel film è meravigliosa, e il regista Sam Mendes. Così sarebbe proprio un Manuale Cencelli molto simile a tutte le altre edizioni, le ultime edizioni degli Oscar, in cui invece della tattica che qualche decennio fa funzionava, dell'asso piglia tutto, hanno preferito diversificare i premi. Però credo che Joker alla fine abbia un'onda lunga anche di visione sulle migliaia di giurati dell'Academy che gli altri non hanno. Certo, sarebbe interessante se ci fosse il primo straniero che vince nella categoria miglior film, quindi insomma forse una piccola speranza per Parasite la tengo. Assolutamente, ecco. sarebbe un evento storico. Io ricordo che lunedì, dopo gli Oscar, quando vi siete svegliati con calma e volete venirne a parlare, anche a mangiare, ci vediamo tutti al Notorio Cinema di Sesto San Giovanni, dove sarò insieme a Beppe Musicco e Antonio Utieri a dialogare proprio sulla notte degli Oscar, mentre ci sarà una cena lì nella sala cinematografica, una cosa un po' particolare. E comunque, lunedì 10 febbraio, ore dalle 19, con l'apertura delle casse, al Notorio Cinema di Sesto San Giovanni. Trovate poi tutte le informazioni sulla nostra pagina Facebook. E allora, Boris, è il momento di tuffarci nella produzione e nella distribuzione cinematografica odierna, contemporanea, di questa settimana, di questo weekend. Ci sono solo 3 film. Cominciamo dal titolo italiano, si intitola Il ladro di giorni. Alla! Alla! non mi riconosci? Mi ha parlato un papà tuo. Lui è venuto a prenderti perché vuole stare un po' di tempo con te. Mi dici che cosa ti hanno detto gli zii di me? Che sto in prigione. E basta. A Bari, domani a mezzogiorno. Questa non mi serve, mi sono portato mio figlio. Un bambino è meglio di una pistola. Ma ti sei pisciato addosso un'altra volta? Cos'è acqua? Cos'è quella invece? Se quella è acqua, questa è farina. Il ladro di giorni dirige Guido Lombardi, protagonista Riccardo Scamarcio insieme al giovane Augusto Zazzaro. La storia di un bambino di 11 anni che vive in Trentino con gli zii, di un padre che da 7 anni non vede perché 7 anni prima lo ha lasciato il piccolo piccolo su una scogliera sul mare, portato via dai carabinieri dalla loro casa in Puglia. Questo padre 7 anni dopo si ripresenta, il bambino fatica addirittura a riconoscerlo, però ne vuole sapere di più questo padre, non ne vuole sapere molto invece il bambino. I due comunque staranno insieme perché la legge è questa, il padre si è rimanifestato e quindi gli zii devono mollarlo, e parte invece a quel punto un road movie che avrà molti molti aspetti pericolosi, ma anche chiaramente l'aspetto di far conoscere e forse far somigliare più il figlio al padre che il padre al figlio, e questo forse è l'aspetto più interessante di un film che Boris si immette, diciamo, direttamente in quella serie, una sorta di sottogenere di cattivi padri che anche il cinema italiano ha frequentato molto. Beh, pensiamo solo all'ultimo Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores, che insomma ne sembra tra virgolette la bella copia, senza nulla togliere al ladro di giorni, però ce ne sono tanti, insomma, di esempi di questo tipo. Funziona molto anche mettere nella parte del padre un giovane o comunque maturo ma giovane attore come Riccardo Scamarcio, che ha un suo carisma e riesce a incarnare bene il personaggio. Il problema del ladro di giorni è che intanto quello che sulle pagine scritte del libro funzionava non trova una grande congruenza invece nell'andare avanti del road movie, perché ci sono dei problemi un po' di credibilità, un po' di ritmo. Poi funziona effettivamente tutta la parte tra virgolette antietica, cioè questo padre che usa il figlio come una polizza assicurativa, e il finale che è meno consolatorio di quanto si creda, anzi, come accennavi tu, è piuttosto problematico. Il fatto è che una buona storia, anche un buon regista, perché Guido Lombardi, ricordiamolo, è quello di Labà e di Take Five, che sono davvero due ottimi prodotti, e un ottimo Riccardo Scamarcio, non bastano a dare fluidità al resto del film, che appare sempre un po' artificioso, appare sempre un po' macchinoso. Ci sono delle cose buone, però non sembra del tutto riuscito. E allora, il ladro di giorni nei cinema, noi diamo la linea alla viabilità, alle strade in diretta, torniamo insieme fra poco, invece parliamo del film più bello della settimana, sicuramente uno dei più belli anche di questa stagione, si intitola Alice e il sindaco. La rosa purpurea. Conosce il mio percorso? Io so che lei è un politico. È il sindaco di Lione. Hanno pagato il prezzo. Ma il sindaco sta bene? Sì. Proverò a esporle la mia situazione. Io ho sempre avuto idee. Avevo 25, 40, 50 idee ogni giorno. No. No. Sì. E poi mi sono svegliato una mattina che non avevo più idee. Non riesco a riflettere. Qual è il suo nome? Alice Iman. Beh, Alice Iman, lei deve aiutarmi a pensare. Alice è il sindaco, anzi Alice, diciamo così, anche se poi nel doppiaggio italiano viene tradotto anche il nome. Una ragazza, Alice, che viene chiamata, direi quasi al capezzale politico, in realtà no, alla corte di del sindaco di Lione, del sindaco di una delle città più importanti di Francia, che a pochi mesi dalle elezioni municipali è privo di idee, non riesce più ad avere idee. L'avete sentito anche nella clip. Dice: io ho avuto sempre tante, tante idee ogni giorno e adesso non riesco ad averne più. E allora l'idea lampante, originale, fulminante, è quella di mettere lì una giovane donna di lettere e di filosofia, non una persona di marketing e comunicazione. Quindi non vendere un prodotto, ma generarlo, creare appunto l'idea. E la cosa funziona, perché Alice piano piano con le sue piccole note quotidiane ispira e dà una nuova giovinezza, una nuova vibrazione politica a questo politico che è tanto importante, quasi in odore di Eliseo, da essere però spento e svuotato dentro. Ma il film è un film di Nicolas Parisé, ricordiamolo, regista anche di Le Grand Jeu, è un film che va oltre il film politico, riesce a tenere l'empatia fra questi due personaggi senza mai far accadere qualcosa di attrattivo, di particolarmente strano, e soprattutto riflette molto su che cos'è la politica, a cosa serve alla politica oggi, sul fatto che comunicare, il marketing, le varie bestie del web, eccetera, forse hanno fatto il loro tempo, forse bisogna più dedicarsi proprio alle idee, a idee nuove, fresche, originali. E questa è una riflessione che chiaramente guarda molto anche nell'accezione che sceglie il regista, guarda molto alla sinistra francese, alla gauche, ma anche in generale a cos'è il campo progressista e cosa dovrebbe essere il campo progressista in Europa. Per parlare di questo film, Boris, bisogna partire da tanti anni fa, da quando Eric Rohmer, il geniale autore della Nouvelle Vague dal tocco delicato, scriveva e realizzava il suo ultimo film, che si intitolava L'albero, il sindaco e la mediateca. In quel film Fabrice Luchini era un candidato sindaco. Lo ritroviamo tanti anni dopo con Parisé, che viene diciamo individuato come l'erede di Rohmer, e con Luchini, che invece è diventato sindaco supernavigato. Insomma, è quasi un passaggio del testimone che aggiorna quella storia e la porta quasi in eredità a un pubblico nuovo e a un dibattito nuovo. Il regista è talmente tanto allievo che realmente ha seguito un corso di Rohmer alla Sorbona, quindi ne è completamente imbevuto, ma non condizionato, nel senso che prende un'opera che era in qualche modo anche il testamento etico di quell'uomo, il testamento politico di quell'uomo e di quel regista, e non ne ha paura, quindi poi lo piega alla sua visione, lo piega anche al suo tipo di regia e al suo modo di narrare, nonostante poi ci sia sempre Luchini. A me è venuto in mente più prosaicamente un altro bellissimo film che parla di politica, che era Viva la libertà di Roberto Andò, dove sostanzialmente l'afflato era lo stesso, il tentativo in qualche modo di intervenire nel dibattito più nobile riguardo alla politica, cioè di che cos'è la politica. Entrambi hanno la caratteristica di essere popolari come film, ma non populisti, di avere dei grandi attori che hanno anche il coraggio di incarnare un simbolo, un'icona, di incarnare quell'uomo che è arrivato sconfitto nella battaglia con le proprie stesse idee. Perché la melma, il fango della politica l'hanno semplicemente reso esausti. E la cosa interessante però di questo film, che lo rende ancora più alto probabilmente, intanto è un Luchini che probabilmente noi diamo sempre per scontato per quanto è bravo, ma che in questo momento storico è l'attore più bravo e completo d'Europa, e dall'altro una regia che tiene la barra non dritta ma graneticamente perfettamente centrale nel racconto, senza mai cadere nel moralismo, senza mai cadere nelle scorciatoie, appunto dicevi tu, un'eventuale storia tra i due personaggi, cioè un rapporto invece più filiale, più di confronto generazionale, e riesce a non alludervi neanche, allo stesso tempo rendendolo potentissimo. Non c'è la voglia di andare contro ciò che è la politica adesso, ma piuttosto raccontare qual è il ruolo della politica, senza nemmeno però essere didascalici. Non c'è una colpa in quest'uomo che ha lavorato così tanto nell'essere stanco, è un uomo che va rivitalizzato, che va ricostruito, che deve trovare un'ispirazione. In fondo lui dice di non avere più idee, ma un'idea ce l'ha nel momento in cui chiama una donna che è una letterata e una filosofa accanto a sé, e in quello dimostra la sua passione, proprio nel momento in cui è più sopita. È un film idealista e non è ideologico, è davvero qualcosa di straordinario per anche la sua originalità in questo momento storico, cioè in questo momento storico di dibattito violento sulla cosa pubblica, attraverso un sindaco, attraverso una piccola storia di un consiglio comunale, ci si libera di tutti i condizionamenti e le polemiche che si hanno riguardo al potere, e però lo si conosce molto meglio, anche nelle sue ombre, senza appunto quel moralismo di cui parlavamo. È un film davvero interessante e soprattutto poi cinematograficamente è un gran bel film. Abbiamo detto, Boris, appunto di un grandissimo, un gigante, Fabrice Luchini. Voglio citare anche Anaïs de Moustier, che fa appunto Alice, che ha in quel suo volto puro, privo di sovrastrutture, una linea quasi politica dello stesso film. Davvero un gran bel lavoro questo Alice e il Sindaco nei cinema italiani. Giochiamo insieme perché è arrivata la prima traccia del nostro film misterioso di questa settimana. Sono io oppure tutti gli altri stanno impazzendo? Sicuramente c'è tensione. Le persone sono provate. E allora, se avete indovinato di che film si tratta, scrivetecelo alla Rosa Purpure a @radio24.it, titolo del film e vostro indirizzo, due Blu-ray che vi aspettano, fra poco vi facciamo ascoltare un'altra traccia. Passiamo al film che sicuramente invece può dare di più, probabilmente a livello di botteghino, dei tre che escono questa settimana. Ritorniamo in atmosfera supereroistica, lato DC Comics, con un personaggio che avevamo visto in Suicide Squad e adesso si prende un ruolo tutto suo. Parliamo di Birds of Prey. Joker e io ci siamo lasciati. Volevo ricominciare da capo, ma non ero l'unica gentildonna a Gotham in cerca di emancipazione. Nessuna uscirà viva da qui. Se non lavoriamo insieme. Con te. Ma stiamo scherzando? Divertente, è come un pigiama party. Oh, ordiniamo la pizza e dei Cosmos. Harley, concentrati. Okay. Il personaggio di Harley Quinn, interpretato da Margot Robbie, protagonista di questa sorta di spin-off, tutto dedicato appunto a un personaggio che quando abbiamo visto in Suicide Squad era una cosa, soprattutto Margot Robbie aveva un certo peso nel cinema in quel momento, oggi chiaramente ne ha tutto un altro. Boris, un film dal quale ti arriva tutto sommato quello che ti aspetti, film coloratissimo, fumettosissimo, con tantissima violenza proprio buttata lì in faccia allo spettatore e con tantissima glam che avvolge con lustrine e paillette questo film un po' panchettaro. Il personaggio c'è, il film? No. Il sospetto ce l'aveva avuto già con Suicide Squad, quando la bruttezza del film aveva valorizzato la performance di Margot Robbie, che io ho sempre sostenuto essere la nuova Meryl Streep, solo che non ce ne accorgeremo perché è troppo bella, però aveva valorizzato quella prestazione fin troppo, nonostante lei avesse un personaggio che era anche una gabbia, fantastico per il suo essere sopra le righe, ma va bene per un comprimario, difficilmente va bene per un protagonista. È vero, come dici tu, che mantiene quello che promette Birds of Prey. Io non credo che nessuno pensi di andare a vedere un film perfetto, né il Joker al femminile. Quello che mi chiedo è perché ogni volta che si cerca di fare un film femminile davvero, in questo caso tutte le protagoniste oltre a Margot Robbie sono donne, e si cerca di raccontare un universo femminile che contrasti con quello maschile, anche se poi la protagonista trova la sua indipendenza solo ed esclusivamente perché viene lasciata dal suo uomo, quindi non è un punto molto nobile, insomma, da cui partire per fare un discorso del genere. Si cerchi sempre in qualche modo la soluzione caricaturale o più facile, per cui penso a Sense8, no? Che è sì, un bel film d'azione ma che non ha nessuno spessore, e qui lo stesso, c'è una voce fuori campo abbastanza insopportabile che continua imperterrita a spiegarci praticamente tutto. La violenza sì, è affascinante e divertente, ma non siamo nemmeno dalle parti di Zack Snyder e del suo fumettone, siamo più dalle parti di Looney Tunes, tant'è vero che insomma a un certo punto la regia è così onesta da far vedere lei che guarda Gatto Silvestro per farci capire qual è il criterio che l'ha ispirato nel poter portare questa violenza, che comunque paga a livello di censura perché ha lo stesso rating per quanto riguarda la censura di Deadpool, quindi insomma in America sarà difficile vederlo per chi è minorenne. Alla fine il film sembra un simpatico gioco, quasi videogioco, che lascia pochissimo, si fa fatica addirittura a ricordarne la trama dopo solo qualche giorno, Ed è un peccato perché secondo me il personaggio poteva essere interessante, e la domanda rimane: è vero che sono due tipi di film, ma perché su Joker si può scavare e fare un piccolo grande capolavoro, e su Harley Quinn invece bisogna fare una simpatica cialtronata che magari è simpatica, è divertente, è un buon intrattenimento, ma davvero niente di più. Se ci pensate, in Suicide Squad quel personaggio aveva affascinato così tanto anche per le ombre che aveva. Qui queste ombre diventano solo il pretesto appunto per una violenza fine a se stessa, per battute abbastanza telefonate e per una voce fuori campo che insomma era antica già 20 anni fa. Ma ascoltiamola allora, la protagonista del film, Margot Robbie, la numero uno forse delle star hollywoodiane di questo momento, sicuramente una delle più richieste, raccolta da Sonia Serafini in quel di Londra. Sentiamo Margot Robbie. Parlaci del tuo personaggio, com'è stato ritrovare la tua Harley Quinn? It's a lot of fun. È molto divertente, e la cosa più eccitante come attore è avere uno svariato numero di scelte per il tuo personaggio. Quando poi sei Harley Quinn, puoi reagire in una maniera oppure in 20 altre differenti. Per esempio, per la relazione con Mr. J, cioè Joker, c'è ancora molto da approfondire e vogliamo vedere com'è Harley senza di lui, come non è mai stata, e chissà se Mr. J si prenderà cura di lei. Jay will take care of her or take care of things. Cosa piacerà al pubblico o cosa devono aspettarsi in questo nuovo capitolo dedicato tutto ad Harley Quinn? It's funny and it's fun and it's quick. È divertente, molto divertente, va direttamente al punto. Questa lucente, scoppiettante icona fantastica. C'è amicizia e amore, c'è stato messo il cuore, c'è humor e penso che le persone si divertiranno a guardarlo. Tutto quello che Harley fa è così poco pratico, qualcosa che non è appropriato alle situazioni normali. Siamo di fronte a qualcosa di completamente differente, fuori luogo, come per esempio metterla sui pattini come se tutto non avesse senso, ma è solo esclusivamente nello stile di Harley. None of it makes sense, which is so Harley. Margot Robbie alla Rosa Purpurea, raccolta da Sonia Serafini. Noi salutiamo Boris Sollazzo, ci sentiamo la prossima settimana, Boris. Alla prossima settimana e buon cinema. E voi rimanete invece con noi, adesso dopo aver dato la linea alla regia ci risentiamo, parliamo di un grande e famoso, iconico film che arriva sotto forma di musical, si tratta di Ghost, e vi chiameremo a partecipare e a vincere numerosi biglietti per partecipare appunto alle serate di Ghost al Teatro Arcimboldi di Milano. Fra poco. La rosa purpurea. C'è Melody, la canzone dei Righteous Brothers, devo dire che non c'è canzone forse che, alla quale venga più accoppiata una scena di un film, cioè sentite queste note e immediatamente vi immaginate a fare la creta su anche dall'altra parte del vetro, devo dire, Pietro Lacorte, l'ho visto subito modellare la creta appena sentito questa canzone. Beh, insomma, quella scena iconica di Ghost la ricordate tutti, Ghost, film del 1990 diretto da Jerry Zucker, con nel cast Demi Moore, Patrick Swayze e Whoopi Goldberg, su tutti, diciamo così, per raccontare la storia che ha incantato più di una generazione. Ormai dal 1990 a oggi sono passati anche 30 anni, la storia di Sam, impiegato di banca, e del suo amore felice con Molly, con la fidanzata Molly, che viene interrotta da un omicidio cruento anche nelle modalità, e da quel momento in poi l'impossibilità di vivere un amore che però in qualche modo li tiene collegati attraverso appunto il fantasma di Sam, che proverà attraverso una medium bizzarra con la faccia di Whoopi Goldberg a mettersi in contatto con Demi Moore. Uno dei film più romanticosi, diciamo così, della storia del cinema, che è diventato già da qualche tempo un musical, un bel musical, tra l'altro con una matrice italiana che abbiamo esportato all'estero, perché il musical che comincia proprio l'11 di febbraio a Milano al Teatro degli Arcimboldi con la regia di Federico Bellone, che fra poco sentiremo, è lo stesso proprio con la regia di Bellone che sta andando a Madrid con grande successo da tanto tempo, quindi insomma abbiamo esportato anche un pochino un format. Allora, di Ghost il musical vogliamo parlarvi, ma cominciamo prima ad assaporare, a riassaporare un po', a evocare il film, visto che parliamo di medium, a evocare il film del 1990 con questa clip. Mia madre l'aveva, e la madre di mia madre anche, possedevano entrambe il dono. Me l'avevano detto che era così, me l'avevano spiegato, ma ora che so di che si tratta non credo che lo voglio. Perciò fammi un favore, vattene e trovati qualcun altro. Qualcun altro? Non sarei mica matta. No, ma sono sulla buona strada. Stai a sentire, tu ora devi aiutarmi. C'è una donna, si chiama Molly Jensen, è in pericolo, in grave pericolo. Ti chiedo solo di fare una telefonata. E cosa ti fa credere che vorrà fidarsi di me? Senti, sei tutto quello che ho e non intendo darti tregua finché non mi aiuterai. Non ha alcuna importanza quanto tempo ci vorrà. Io posso tormentarti per sempre. E questo è il modo in cui Sam cerca di proteggere Molly anche dopo la morte, appunto attraverso il dono di questa medium, di questa Whoopi Goldberg straordinaria. Allora, al Teatro degli Arcimboldi di Milano, Ghost va in scena, come dicevo, dall'11 febbraio e fino addirittura al 1 marzo, quindi tantissime repliche in un teatro molto grande, con un cast che vede Giulia Sol nei panni di Molly, Mirko Ramu in quelli di Sam e Gloria Anchil in quelli di Oda, appunto la medium, per la regia di Federico Bellone, che ormai è diventato un marchio di qualità del musical italiano, che abbiamo incontrato proprio nel padiglione televisivo a Milano nel quale si stavano svolgendo le prove di Ghost. Sentiamo. Allora, Federico Bellone, siamo in radio, non si vede, però siamo in uno studio nel quale si sta lavorando alla messa a punto di Ghost, il musical che torna nei teatri italiani, Bologna, Roma, Milano e poi tutta una lunga tournée, un titolo che aveva già calpestato i palcoscenici sotto forma di musical qualche anno fa, ma che tu hai un po' preso e rivoluzionato. Allora cominciamo da qui, siamo una trasmissione di cinema, cominciamo dal cinema, e tu ti sei attaccato molto al film e molto all'anima vera del film, che è quella di una grande storia d'amore impossibile. Esattamente, sì, io penso che quando il pubblico va a teatro in qualsiasi parte del mondo comunque si aspetta di trovare quello che conosce. Se poi quello che conosce viene, diciamo, grazie al linguaggio teatrale anche amplificato, ben venga. Ma tutte le volte che trova qualcosa di estremamente diverso, o è un qualcosa di geniale che accade molto raramente o viene deluso. Quindi quello che ho fatto io è cercare di tornare all'essenza del film, che è sostanzialmente il problema che affligge tutti i personaggi, ovvero che non si può tornare indietro nel tempo e che nella vita, quindi non potendo tornare indietro, è bene essere vigili e capire quando è il caso di prendere coraggio e fare un determinato passo, come per esempio dire ti amo, che appunto il protagonista di Ghost non riesce a dire, ma dice idem, e che quindi non ha l'occasione di dire, e quando lo vuole dire è troppo tardi. Federico, Ghost è uno di quegli esempi, di film la cui forza, potenza, permanenza nella testa, nella mente della gente è andata forse anche oltre i meriti addirittura, no? Cioè, cinematograficamente sono film molto ben studiati, ma con una storia molto esile, molto semplice. Ci sono anche altri casi, penso a Pretty Woman, per esempio, eccetera, ma che poi sono rimasti per sempre. Ti chiedo, cosa aggiunge e cosa può aggiungere proprio a questa struttura molto, molto base il teatro musicale? Cioè, che dimensione gli può regalare? Intanto io credo tantissimo nel fatto che il teatro, essendo l'unica forma d'arte dal vivo, abbia un qualcosa che poi forse la tecnica ci stupirà, perché non ci smette di stupire ogni singolo giorno che passa, ma credo che il fatto di avere davanti a noi un essere umano in carne ed ossa sia una cosa insostituibile e che farà sì che il teatro non morirà mai, perché sostituire un essere umano con qualcos'altro è veramente, veramente difficile, secondo me. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che il musical in sé, nel suo linguaggio specifico, avendo la possibilità con le canzoni di sviluppare dei momenti specifici della storia, come per esempio Molly che improvvisamente sente questo vuoto enorme dentro di lei, in inglese la canzone si chiama With You, penso che dia allo spettatore l'opportunità di andare a scoprire qualcosa che magari nel film si ha unicamente da un primo piano, senza nulla togliere a un primo piano di Demi Moore, ovviamente, che è sicuramente riuscito. Abbiamo parlato di tecnica, esiste anche un livello di effetti speciali ovviamente fondamentale nel cinema e in Ghost in particolare, ricordiamo che è pur sempre la storia di un morto che parla con una viva attraverso una medium, insomma non proprio la cosa più facile da rendere in un teatro. Come hai lavorato questo aspetto? Perché chiaramente oggi il teatro musicale sempre di più chiede anche questo, chiede anche un po' di magia. Certo, abbiamo questo illusionista che si chiama Paolo Carta, con cui ormai collaboro da tanti anni, che a mio avviso è una grandissima mente della magia. Essendo italiano ed essendo nato in Italia, non ha questa fama internazionale semplicemente appunto perché l'Italia, diciamo che è un paese ovviamente con i suoi limiti rispetto alle arti dal vivo. Lui ha curato con me vari spettacoli, tra cui Mary Poppins, e i risultati che abbiamo ottenuto, secondo me, sono molto alti. Quindi abbiamo cercato di sfruttare la sua, secondo me, genialità e fare delle cose che appunto non ci sono neanche nella edizione di Ghost originale a Broadway. Per esempio, a un certo punto nel film ci sono dei fantasmi che si buttano nel corpo di Oda per impossessarsi del corpo, e da qui accade qui accade esattamente questa cosa, cioè si vede realmente, senza tulle davanti, senza nessun tipo di barriera, una persona che si lancia e entra nel corpo di un'altra. O un altro apice dello spettacolo, che in Spagna ogni volta riscuote un grosso oh, che è rarissimo da sentire a teatro, è la morte di Carl, che appunto muore e fisicamente, visivamente, senza nessun telo davanti, quando si rialza in quanto fantasma, il suo corpo rimane a terra presente, quindi c'è un'ubiquità, diciamo un effetto di ubiquità che riscuote sempre molto stupore. O alla fine, come la sparizione finale di Sam, che deve lasciare la terra per andare definitivamente in paradiso, che letteralmente anche qui davanti alla scena, senza sbuffi di fumo, colpi di magnesio eccetera, si eclissa lentamente nell'aria fino a diventare non materia, diciamo. Federico Bellone, regista di Ghost, il musical, dimenticavo tra l'altro, con le musiche di Dave Stewart degli Eurythmics, insomma anche questa versione musical ha una sua importanza proprio in questo nome grande della musica pop rock internazionale. E allora La Rosa Purpurea, come spesso fa, manda i suoi ascoltatori al cinema a volte, a teatro altre volte, in questo caso a vedere un musical. Con un semplice meccanismo, segnatevi il nostro numero di SMS 349-238-6666 e da questo momento, se volete partecipare alla serata agli Arcimboldi dell'11, scrivete Ghost 11. Se volete partecipare a quella del 12, Ghost 12. Semplicemente verrete ricontattati dalla nostra segreteria lunedì mattina e i primi 10 ascoltatori che scriveranno la nostra parola chiave verranno appunto ricontattati e invitati agli Arcimboldi. Chiaramente ogni ascoltatore potrà presentarsi accompagnato, insomma arrivare in due. Quindi 40 biglietti a disposizione, 20 sulla serata dell'11, 20 sulla serata del 12, 349-238-6666, Ghost 11 per chi vuole andarci l'11 febbraio, Ghost 12 per chi vuole andarci il 12 febbraio. Dobbiamo ancora giocare insieme, noi continuiamo a regalare qui i biglietti per il musical Ghost, ma anche il Blu-ray della settimana, che è il nostro film misterioso. La smetta di infastidire mio figlio? Se non lo stavo infastidendo. La smetta! Stavo... E questa risata è un vero marchio di fabbrica. E allora, se avete individuato il film misterioso, vi aspettano due Blu-ray. La Rosa Purpurea, @radio24.it è il vostro indirizzo, mi raccomando, per vincere due Blu-ray di questo film che sveleremo. Fra pochi minuti, fra poco torniamo ancora cinema a teatro attraverso la regia di Alessandro Gassman e del suo nuovo spettacolo in scena che si intitola Il Silenzio Grande. Fra poco. La rosa purpurea. Battute prese con proprio con l'audio ambiente del teatro Carcano di Milano, che dal 6 febbraio, cioè da qualche giorno, fino al 16 febbraio, quindi ancora per tutta la prossima settimana, propone una pièce molto interessante, contemporanea, che si intitola Il silenzio grande, scritta da Maurizio De Giovanni, scrittore di numerosi libri di successo. Pensate alla serie, anche alla serie Il commissario Ricciardi, Bastardi di Pizzo Falcone, che ha appunto scritto questa pièce interpretata da Massimiliano Gallo e Stefania Rocca, con la regia di Alessandro Gassman. Uno spettacolo su una famiglia alle prese con l'essere duri e puri intellettuali. Il protagonista, appunto Massimiliano Gallo, è uno scrittore che concede poco al mondo inteso come mondanità, ma una famiglia che è sull'orlo di un momento finanziariamente non facile, e chiaramente i nodi vengono al pettine con la moglie e i due figli che reclamano la loro idea delle cose. Ma un grande colpo di scena poi ci dirà che in fondo quello che stiamo vedendo non è proprio tutto vero. Bella la regia di Alessandro Gassman, che utilizza anche stratagemmi cinematografici come una sorta di velo che copre il palcoscenico e sul quale vengono proiettate immagini molto molto suggestive, al Teatro Carcano fino al 16 di febbraio. Parliamo adesso invece di una serata che si terrà lunedì 10 al Cinema Mexico di Milano. È una serata particolare perché verranno proiettati due documentari, uno si intitola Mineur, l'altro Quando sei con me, che hanno di particolare che sono stati realizzati dagli studenti della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti e presentati già con successo in numerosi festival. Il 10 febbraio arrivano al cinema per un pubblico generalista. Di questo parliamo con Mini Ferrara, che è direttrice della Scuola di Cinema della Civica di Milano. Ciao Mini, grazie per essere qui con noi. Ciao a tutti, grazie a voi di avermi chiamato. E allora, mi fa piacere. La soddisfazione di avere due ragazzi della Civica proiettati in una vera sala con un vero pubblico. Sì. È una grande soddisfazione perché, come tu hai già anticipato, noi spesso siamo viziati da questo punto di vista. Abbiamo l'abitudine di vedere proiettati nei festival molti dei lavori realizzati all'interno della scuola, però diciamo che questa è un'occasione un po' speciale perché, come proprio tu hai detto, questa volta la proiezione è per un pubblico più generalista, quindi è un confronto con la platea con la quale noi ci auguriamo che i nostri studenti abbiano a che fare in maniera continuativa da dopodomani. Come lavora oggi la Civica di Cinema? Che tipo di professionalità forma? La Civica ha 8 indirizzi diversi, per cui dalla regia, la sceneggiatura, la produzione, il montaggio, il suono, multimedia, fino ad arrivare ad animazione, quindi insomma le declinazioni più diverse di linguaggi, formati e approcci. La cosa secondo me molto interessante, che ha a che vedere anche direttamente con la proiezione di lunedì sera, è che la Civica ha anche un corso serale e Mineur, il lavoro che riguarda i minatori della Valtellina, intanto è stato diretto a 8 mani, quindi saranno tanti registi presenti in sala lunedì, ma è il frutto del corso di documentario del serale, corso e serale che esistono da circa 20 anni e che pure insomma io considero un po' un fiore all'occhiello della nostra scuola. Assolutamente. Serale è un momento molto importante di confronto con dei neo professionisti, quindi è un altro bel momento di formazione. Certo, un po' un invito a non arrendersi, ma come dire, a continuare a studiare il cinema anche quando la professione magari già la si sta svolgendo. Sì. Allora, Minni, ricordiamo l'appuntamento, lunedì 10 febbraio, ore 21, Cinema Mexico di Milano, Minor e Quando sei con me, i documentari della scuola di cinema Luchino Visconti di Milano diventano materiale per essere visto al pubblico, tra l'altro con grande coraggio, perché andate in controprogrammazione alla notte dopo gli Oscar, quindi come dire... Parliamone, esatto, vabbè, ma noi siamo così, siamo coraggiosi. Benissimo, Minni, grazie ancora per essere stata qui con noi, alla prossima. Grazie a voi, arrivederci. E allora, appuntamenti per vedere sempre del cinema, tanto cinema bello, diverso, particolare, dagli Oscar ai documentari che sono di grandissima fattura, devo dire, realizzati dai ragazzi della Civica. Noi andiamo avanti con il nostro programma, chiaramente è arrivato il momento anche di dedicarci al cinema da vedere in casa, rispolverando una traccia del nostro game di 7 giorni fa. Lei era ancora molto giovane, non più di 17 o 18 anni. E lui era assai più vecchio. E allora, il film era Paris, Texas di Wim Wenders, l'avevamo svelato. Il vincitore è solo uno. Mi avete un po' deluso stavolta, ma aspettavo di più da voi, studiate meglio. Allora, Emanuele Iengo di Casoria, provincia di Napoli, l'unico che ha indovinato appunto il titolo e che riceverà questo bellissimo Blu-ray edito da Ripley Sound Video con appunto la nuova edizione restaurata di Paris, Texas, che ci facciamo raccontare dal nostro Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio! Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. In Paris, Texas, lo sforzo, dice Wim Wenders, è stato quello di inventare il linguaggio sul momento, lasciando che imporre le inquadrature fosse quello che accadeva sul set. Questo ha confessato il regista, e i veri grandi registi spesso fanno questa cosa. Nel suo cinema, quella che in genere viene definita improvvisazione costituisce la ragione d'essere del racconto, la sua verità, il suo fascino. Tutto questo potete recuperarlo in un meraviglioso Blu-ray di Ripley Sound Video con grande comparto extra, commento audio, 20 minuti di scene eliminate, i super 8 girati dai due protagonisti, e chi conosce il film sa di cosa parlo, una lunga intervista a Wenders e un bellissimo booklet pieno di saggi e interventi. Davvero una bellissima edizione questa di Paris, Texas di Ripley's. Giulio, andiamo avanti con le segnalazioni dei film dai palinsesti televisivi. Un bellissimo film di tempi recenti, 2016, quando Kenneth Lonergan dirigeva Manchester by the Sea, in onda domenica 9 febbraio su Iris alle 21. Lee conduce una vita solitaria in un seminterrato di Boston, tormentato dal suo tragico passato. Quando suo fratello Joe muore, è costretto a tornare nella cittadina d'origine. L'idea era che lei si trasferisse qui. Io trasferirmi dove? Qui? Si analizza con... Come può vedere, suo fratello ha considerato tutto molto attentamente. Non può essere che intendesse questo. Lonergan, scrittore e regista che amo moltissimo, è pronto ad accogliere la normalità e il lato ridicolo dell'esistenza dei suoi personaggi. Usa dialoghi e silenzi per sumarne i caratteri, imprimendo alla narrazione un ritmo interno che miracolosamente sa di umano. Casey Affleck rende la ferita del protagonista, la sua fragilità, con un'economia di toni che è veramente impressionante, e affronta a viso aperto ogni deriva sentimentalistica, concependo scene tra le più struggenti del cinema americano recente. Recuperatelo. Recuperatelo allora, Manchester by the Sea, domenica 9 febbraio su Iris alle 21. Giulio, ci sentiamo la prossima settimana per parlare ancora delle segnalazioni di Film TV. Ciao Franco, alla prossima settimana con i consigli di Film TV. Ed eccoci giunti alla fine della nostra trasmissione. Fra poco vi sveliamo il film misterioso, ma penso poco misterioso davvero, di oggi. Ha avuto un tale successo, anzi lo facciamo subito. Abbiamo giocato con Joker, questo era il titolo misterioso. I vincitori dei due Blu-ray li annunceremo la prossima settimana. Lo dico perché Joker, come abbiamo detto in apertura, è anche uno dei film che vedremo protagonisti nella notte italiana fra domenica e lunedì per gli Oscar. E vi ricordo ancora l'appuntamento lunedì sera a Sesto San Giovanni, proprio al bordo del confine del cartello Milano, siamo proprio dall'altra parte, al Notorious Cinema, con Beppe Musicco, Antonio Otieri, ci sarò io, parleremo di Oscar, analizzeremo gli Oscar mentre si mangerà una cena lì nella sala cinematografica, cosa molto molto particolare. Sulla pagina Facebook del nostro programma La Rosa Purpurea trovate tutti i dettagli. Io vi aspetto lunedì sera dalle 19 appunto per parlare di Oscar, il Notorious Cinema di Sesto San Giovanni. Ci sentiamo la prossima settimana, gli Oscar saranno stati assegnati, magari diremo ancora qualcosa, vedremo come andrà a finire questa grande battaglia. Io vi saluto, vi do appuntamento a sabato prossimo alle 18. Un saluto da Franco D'Assisi. Gestione da cattive notizie? Stress da cambiamento climatico? Depressione da lettura dei giornali? Prova Si può fare. Col suo concentrato di buone notizie agisce rapidamente contro il pessimismo. Lo puoi assumere fino a 2 volte a settimana, tutti i sabati e le domeniche dalle 8:30 alle 10. Anche a stomaco vuoto? Sì, beh, se fai colazione è meglio, noi la facciamo.